Io già ho detto in gruppo. La questione è che la frequenza che c'è questo strumento qua è molto simile a quella che ci avete voi. Perciò se lui fa la solo e te tipo fai la solo, viene fuori. Thank you. Thank you.